Storiacce di Raffaella Calandra. La città che vide l'inferno in terra ora spera nel Papa venuto dalla fine del mondo. Francesco arriva a Sarajevo 20 anni dopo la fine della guerra, 20 anni dopo Srebrenica, il peggior massacro consumato in Europa dopo l'Olocausto. Sventolano gli striscioni col sorriso di Bergoglio tra le strade di Viecenica, quel centro storico dove, nonostante la ricostruzione, restano i segni dei cecchini e dove chiazze di pietre rosse ricordano i bombardamenti del 92-95. Una è di fronte alla cattedrale e alla statua di Giovanni Paolo II, che visitò l'attuale capitale della Bosnia-Erzegovina subito dopo il conflitto. E oggi, come allora, i 4 milioni di abitanti di un paese nato con gli accordi di Dayton sperano nel Papa per un nuovo inizio, dopo gli errori del conflitto e della pulizia etnica e dopo le lacerazioni di un massacro come quello di Srebrenica, su cui non c'è accordo nemmeno sul numero delle vittime. E allora da qui parte questa puntata di Storiacce. Ostali smo bez svojih članova. Noi, come madri di Srebrenica, abbiamo perso i nostri familiari, alcuni arrestati, altri uccisi, di altri ancora non sappiamo cosa sia successo loro. E noi cerchiamo ancora le persone mancanti. Stiamo cercando ancora giustizia per questo genocidio successo 20 anni fa, qui nel cuore dell'Europa. Secondo noi, secondo i nostri calcoli fatti in base alle registrazioni, sono state massacrate 10.700 persone, 400 bambini, 570 donne. Alcuni parlano di 8.000 morti, altri ancora di meno. Non c'è una cifra esatta. Quello che si sa di certo è che fu uno sterminio. Ha nel viso i segni del tempo e del dolore Kada Otic, una delle madri di Srebrenica, una delle donne sopravvissute allo sterminio di musulmani nel cuore dell'Europa, quando la guerra nell'ex Jugoslavia sembrava ormai quasi finita. 11 luglio 1995, Srebrenica, un nome che è sinonimo di massacro e allo stesso tempo è un atto d'accusa per l'intero Occidente, che non seppe evitarlo perché era lì mentre si compiva e che anzi, in un certo senso, lo favorì interrompendo i bombardamenti sui serbi, come racconta ora anche un generale olandese che lì era a distanza, aprendo così la strada alle truppe del generale serbo Mladic. Lui, il macellaio, e Karadzic, considerato la mente politica dello sterminio sistematico dei musulmani di Srebrenica, sono tuttora sotto processo davanti alla Corte dell'Aia, che ha già stabilito, nel giudicare altri paramilitari serbi, che quello avvenuto a Srebrenica fu genocidio. Anche Kada Otic, come altre madri di Srebrenica, è stata più volte in quell'aula per vedere in lontananza i colpevoli di uno sterminio che annientò solo nella sua famiglia allargata 56 vite, compresa il figlio, il fratello e il marito. Do 92 godine Srebrenica bio jako lijep život. Prima del 92 avevamo una bella vita. Srebrenica è un piccolo centro. Eravamo poco più di 5.000 persone, quasi tutti, il 76%, musulmani. Gli altri cattolici e ortodossi. Ma non c'era differenza tra noi, avevamo molte cappelle. Posso dire che siamo stati sorpresi dalla guerra, sorpresi dal fatto che i nostri vicini cominciassero a dare ascolto a Milosevic, secondo cui noi dovevamo essere uccisi per creare una grande Serbia. Cominciarono prima distruggendo delle foreste con la scusa del legno, poi la polizia per creare le aquile bianche, ma non ci aspettavamo un attacco. Per cui non avevamo alcuna organizzazione militare, solo molto dopo gli uomini cominciarono a pensarci, anche se senza armi. Ben presto, però, divenne impossibile lasciare la città perché era stata svuotata la stazione di benzina e tutti i collegamenti erano distrutti. Allo stesso tempo, da noi a Srebrenica, arrivava gente di altre città, in fuga dagli attacchi dei serbi che stavano uccidendo tutti. I villaggi venivano bruciati. All'improvviso a Srebrenica diventammo in 60.000, quando eravamo solo 5.000 abitanti. Ad un certo punto tutto ebbe un'accelerazione e il 7 maggio decidemmo di trasferirci verso la collina. 29 persone rimasero in città e furono uccise, compresi 8 disabili. Furono bruciati vivi. E furono le prime vittime di Srebrenica. Andammo verso le montagne perché Srebrenica era diventata come un campo di concentramento, senza cibo né possibilità di procurarcelo. E allora si moriva di fame e, ve lo posso garantire, essere affamati è peggio di essere uccisi. I serbi però capirono che ci stavamo spostando. Cominciò così a capitare sempre più frequentemente che le persone che cercavano cibo nelle foreste venissero catturate dai serbi. Noi non li abbiamo più visti, ma la nostra lotta per la sopravvivenza fu più forte di ogni pericolo. Nell'inverno del 93 nevicò e la neve coprì tutto, compreso il grano. La gente moriva letteralmente di fame. Così ricordo che in prossimità del Natale ortodosso andammo nel villaggio in cerca di provviste. Io non so come fui capace di portare con me, solo io, 60 kg di farina e li trascinai per 15 km ed ero felice. Il 6 aprile del 93, il generale francese Janvier arrivò a Srebrenica, ma prima che andasse via, noi donne organizzammo barricate perché volevamo essere visti dal mondo, volevamo obbligare il mondo ad aiutarci. Una donna aveva in braccio il figlio morto e glielo avvicinò. Quando lui lo toccò, rabbrividì e glielo restituì. Davanti all'ufficio postale, poi, dichiarò con un megafono che Srebrenica veniva proclamata area demilitarizzata. Allora noi cominciammo ad applaudire, dicevamo grazie, gli promettemmo che gli avremmo dedicato una strada. Davvero noi pensavamo di essere salvati. Arrivò l'ONU, arrivarono i militari canadesi, ma avevamo una terribile crisi umanitaria perché non c'era cibo e i serbi non aprivano la strada, finché l'ONU non cominciò a portare coi treni il cibo. Ci credettero davvero gli abitanti di Srebrenica alle parole del generale e alla salvezza. In un'area dichiarata demilitarizzata dall'ONU, che cosa mai poteva succedere loro? Successe invece quello che ancora oggi si fa quasi fatica a credere, se non davanti alle centinaia e centinaia, migliaia di foto e di resti che danno un viso e un'identità a quegli ari di numeri che fanno di Srebrenica il peggior sterminio avvenuto in Europa dopo l'Olocausto. E di molti altri non si seppe più nulla, non si ebbe nemmeno un osso da seppellire. 20 anni sono troppo pochi per un dolore così che continua a dividere e a lacerare, mentre ancora migliaia restano i processi aperti per crimini di guerra nell'ex Jugoslavia, e tutto questo è successo solo 20 anni fa e non in terre lontane, ma a 2 ore di volo da Milano, qui nel cuore dell'Europa. Storiacce. La gente ora dice di guardare avanti e di non pensare troppo indietro alla storia. Ma quest'anno sono 20 anni dagli accordi di Dayton e sono 20 anni dal massacro di Srebrenica. Ed è in questo paese che ora arriva il Papa, che tutti aspettano perché darà visibilità al paese. Dayton ha in realtà solo congelato il conflitto e ci sono tantissime questioni niente affatto risolte. Ma dall'anno scorso l'Unione Europea ha lanciato un nuovo approccio per le riforme socio-economiche e non vedo ragioni per cui in futuro la Bosnia Erzegovina non possa unirsi all'Unione Europea. La Bosnia ha una maggioranza musulmana e le tensioni religiose qui esplodono molto facilmente, ma la Bosnia può diventare il primo paese europeo a maggioranza musulmana e personalmente penso sarebbe una gran cosa perché dimostrerebbe che l'Unione Europea è aperta a questo. Il desiderio dell'ambasciatore Lars Gunnar Wigermark, alto rappresentante europeo e capo della delegazione europea a Sarajevo, si infrange ancora però davanti alle divisioni profonde di 3 etnie, quella serba, croata e bosniaca, rappresentate da 3 diversi presidenti nella guida della Federazione della Bosnia Erzegovina, e si infrange sulle lacerazioni tuttora aperte del dolore di Srebrenica. Tanto che l'attuale capo di Stato, che proprio in questo momento è serbo, ha fatto sapere di non voler andare alle cerimonie per il 20° anniversario del genocidio l'11 luglio, perché le vittime, ha detto, sono strumentalizzate politicamente. Ora devo anche sentire che il presidente della Federazione della Bosnia Erzegovina non va alle celebrazioni per il 20° anniversario della strage e penso che la politica ha avvelenato tutto. Ma spero solo che le coscienze delle persone, di tutte, dei serbi, che non ammettono il massacro, ma pure dei croati e dei bosniaci, siano toccate, perché non succeda mai più. Ma vedo ancora tante tensioni in questo nostro paese, che è un esperimento fatto dagli accordi di Dayton. Ma vorrei tanto vedere in vita ancora dei cambiamenti per lasciare ai miei nipoti una Bosnia migliore. Quasi non c'è sorpresa né indignazione nelle parole di Kadaotic, una delle madri di Srebrenica, una dei sopravvissuti che con le varie associazioni ancora si batte per dare giustizia alle vittime, per dare una tomba ai dispersi e consegnare ai nipoti la testimonianza di quello che è stato. 1300 i fascicoli ancora aperti per crimini di guerra qui nella Bosnia Erzegovina e sono solo quelli senza i sospetti. Ma Srebrenica è a parte, Srebrenica fu un genocidio per cui i due principali responsabili, i generali Mladic e Karadzic, sono tuttora sotto processo davanti alla Corte Europea dell'Aia e la stessa Europa, oltre all'ONU, comincia a fare un mea culpa per non aver saputo impedire quel massacro. I massacri dei primi e i silenzi dei secondi per una sopravvissuta come questa donna oggi ottantenne, sono sulla stessa bilancia che rende impossibile, ammette, perdonare. Quando ormai facevamo il conto alla rovescia per la fine della guerra, nel luglio del 95 arrivarono i soldati olandesi. Ricordo che erano arroganti, avevano tanto cibo, la carne, e quello che avanzava lo buttavano mentre noi morivamo di fame. Ridevano di noi dicendo che collezionavamo spazzatura. Dicevano che i musulmani erano merda. Quando all'inizio di luglio ci fu un altro attacco serbo, in migliaia andammo alla base ONU di Potokari e l'11 luglio arrivò il generale Mladic coi suoi uomini e a quel punto si consumò l'impensabile. Presero tutti gli uomini, compresi i miei fratelli, misero insieme gli adolescenti, delle donne, alcune furono stuprate, altre rimasero spettatrici dell'orrore ma non si muovevano perché lì c'erano i loro figli. Furono 2 giorni e 2 notti di grida, di sangue, di orrore. Mio fratello fu portato in quella che noi chiamavamo la Casa Bianca e non è mai tornato. Quello era il luogo delle torture. Un soldato raccontò poi di aver visto mutilazioni, di gente a cui veniva tagliato il naso, le orecchie, i genitali. E poi usarono la nostra scorta di acqua, anche questa, per le torture. Il 13 luglio cominciammo a piccoli gruppi ad uscire dalla base. C'erano migliaia di persone. Una donna partorì nella folla mentre cercava di raggiungere questi piccoli bus che ci aspettavano. Un militare prese il neonato e lo decapitò. Ciascuno rimase in silenzio, senza speranza né paura. Ucciso poco dopo fu anche un altro bambino che piangeva. Tutti noi pensavamo solo che stavamo andando a morire. L'ONU era lì, i caschi blu non erano lontani, ma nessuno ci aiutò. Io riuscii ad entrare in questi bus. Andavano piano, ma io non volevo vedere mio figlio catturato. Prima col bus, poi a piedi, camminammo lungo il confine tra Serbia e Croazia. Ogni tanto qualcuno veniva ucciso, come successe ai 2 figli di una donna. Ma nessuno poteva fare niente, andavamo solo avanti. Io camminavo con mia cognata e arrivammo fino a Tuzla, dove c'era un accampamento di tende. Ci aspettavano, avevano organizzato tutto. Quello che oggi penso è che fummo tutti condannati a morte, dalla Serbia di Milosevic, dalle truppe del generale Mladic, dal silenzio e dal mancato aiuto dell'ONU. Io ho perso mio marito, mio figlio, mio fratello. In tutta la mia famiglia, 56 persone sono state trucidate. Rivedo in continuazione, davanti agli occhi, l'ultima volta che ho visto mio figlio, in mezzo a quel caos, a migliaia di persone, alla confusione più totale. Mi ricordo che lo chiamai e lui si girò. Ricordo il suo profilo e le mie parole. Buona fortuna, gli dissi. Di lui mi resta ora la lapide nel memoriale di Potokari, col nome di Sami, che aveva 29 anni. È stato identificato col DNA dopo il ritrovamento delle gambe. Dopo che ho vissuto questo, penso che nulla mi possa più uccidere. Né il cancro al seno che ho avuto, né il fumo, nulla. Io torno spesso a Srebrenica, parlo con la gente, racconto, testimonio a tutti che la guerra è la cosa più stupida di tutte, ma non riesco ad immaginare di perdonare. Io non posso perdonare, perché non posso dimenticare. Come posso dimenticare mio figlio? Zaklami oba dva sina. Anche di massacri, purtroppo, è fatta la storia del mondo, fin dall'epoca del mito. E la linea allora, come sempre a questo punto, va alle mitiche storiacce di Giorgio Joranò, professore all'Università di Trento e autore per Sonzogno di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Massacri di popolazioni, uomini uccisi a sangue freddo, donne stuprate, sono gli orrori della guerra che i greci conoscevano bene quanto noi e che narravano anche nei loro miti. Pensate all'assedio e alla conquista di Troia. È da sempre la storia esemplare della violenza brutale dei vincitori e del dolore delle popolazioni sconfitte. I troiani e le troiane, vittime della furia dei greci, sono l'icona del dolore delle vittime di guerra. Donne, vecchi, bambini, anche nel giorno della caduta di Troia nessuno fu risparmiato. La giovane Cassandra stuprata nel tempio della dea Atena, il bambino Astianate buttato giù con crudeltà dalle torri di Troia e mandato a sfracellarsi sulle pietre, il vecchio Priamo sgozzato su un altare. Un altro assedio celebre nella mitologia fu quello della città di Tebe, narrato da Eschilo nella sua tragedia I Sette contro Tebe. E quando Mario Martone, anni fa, volle raccontare nel suo film Teatro di guerra la tragedia contemporanea della guerra in Jugoslavia e dell'assedio di Sarajevo, ricorse anche lui alle parole di Eschilo e mescolò la Grecia del mito con i Balcani contemporanei. Una cosa però va detta: nel mito, come nella realtà, i greci non ammazzavano mai o quasi mai il loro prossimo per ragioni di razza o di religione. Ci fu qualche eccezione, sì, che ai noi allora, come in tempi più recenti, riguardava spesso i pogrom contro gli ebrei, ma in linea di massima gli odi nazionalistici e le pulizie etniche sono un fenomeno tutto moderno, tutto nostro. Un greco non li avrebbe capiti. Ma cosa significa oggi Srebrenica per i cittadini europei? Se vi va, scriveteci sulla pagina di Storiacce, sul sito Radio 24 o sul blog. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!